Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Questa settimana iniziamo da Internazionale, quello il numero in edicola da ieri, perché ha un articolo che è in realtà la traduzione di un commento del periodico de Catalunya in Spagna e è interessante perché, come avrete seguito, o forse insomma è una delle tante notizie di politica europea dell'ultima settimana, è proprio questa del voto in Catalogna per l'indipendenza della Catalogna. Poi c'è tutta una questione a livello della Corte Suprema spagnola, ma è appunto una questione poi interna. Intanto il voto è stato molto significativo. E allora il commento si intitola "I catalani in un vicolo cieco". Vi leggo la prima parte che trovate appunto su Internazionale di questa settimana. Il 9 novembre il Parlamento catalano ha votato la dichiarazione che dovrebbe dare l'avvio alla disconnessione dalla Spagna e consentire alla comunità autonoma di non rispettare le leggi spagnole e le sentenze della Corte Costituzionale di Madrid. Bisogna ricordare che questa risoluzione ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei deputati catalani, ma non della maggioranza di 2/3 che dal 2006 è necessaria per modificare lo statuto regionale. E quindi poi vi leggo il passo che soprattutto riguarda anche il coinvolgimento dell'Unione Europea o il ruolo che l'Unione Europea potrebbe avere in questa questione di indipendentismo regionale. È finito il tempo delle dichiarazioni altisonanti, non si possono organizzare strutture statali parallele su base volontaria e non è concepibile la disobbedienza alle leggi lasciata all'arbitrio di chiunque. Il Parlamento catalano è andato al di là di qualunque regola democratica e non può aspettarsi il sostegno di nessuno in Spagna, nell'Unione Europea o nella comunità internazionale. E vedremo, insomma, seguiremo sicuramente questa vicenda che è molto importante. Non quanto però, come forse spesso anche un po' noiosamente ripeto, quella dei migranti, delle migrazioni. Ne abbiamo parlato tanto quando c'erano i fatti di cronaca, adesso che, nonostante questo anticiclone che pare resterà con noi fino almeno a tutta la settimana prossima, quindi nonostante il tempo non stia ancora peggiorando e quindi il corridoio del Mediterraneo resta aperto, ma tra un po' poi verranno utilizzati altri corridoi perché arrivare in Europa per mare diventa sempre più difficile per le condizioni climatiche appunto, però intanto continuano gli sbarchi, li avete sentito anche questa settimana, e soprattutto c'è stato il vertice a Malta sulla questione dei migranti, l'Europa, l'Africa e i migranti, questo vertice, e il Times of Malta però ha fatto un'analisi cercando di spiegare che qualunque fosse poi la conclusione del vertice, sapete che per esempio Juncker ha detto quella famosa frase a effetto se tutti gli stati europei continuano a essere così riluttanti nell'applicazione della riallocazione dei migranti andremo avanti fino al 2021. Ecco, a parte questo, che sono poi delle boutade politiche, il Times of Malta, e Malta è uno dei paesi dei paesi più coinvolti perché è uno dei paesi che ha il primo impatto con i migranti, il Times of Malta va un po' oltre. E allora si spiega, per esempio, prima di tutto è evidente che è stata l'Unione Europea a indire il vertice, che invece l'Unione Africana è stata invitata a partecipare, anche se dovrei dire, scrive il giornalista Matt Bugri, che sono stati invitati a partecipare alcuni leader africani che l'Europa considera importanti ai fini della sua agenda sulle immigrazioni. Quindi diciamo che un primo problema è questo nome apparentemente così paritario, o il vertice tra Europa e Africa sui migranti, poi in realtà è tutto a cura dell'Europa che ha scelto sostanzialmente chi invitare a questo tavolo. In secondo luogo, il vertice della Valletta è stato considerato dall'Unione Africana come un summit dell'Unione Europea, per l'appunto, al quale l'Unione avrebbe partecipato in veste di ospite. Al di là dei vari strumenti che definiscono le relazioni o la partnership tra Unione Europea e Unione Africana, è importante osservare che quest'ultima ha avuto una posizione comune su migrazioni e sviluppo fin dal giugno 2006, una cosa che non si può dire, lo sappiamo, dell'Unione Europea, che, come abbiamo visto anche dalla dichiarazione di Juncker, è ancora così lontana dall'avere non soltanto una posizione comune, ma addirittura poi una volontà di far rispettare delle decisioni che in teoria sono state prese a livello di Bruxelles e che quindi poi i singoli paesi, sempre in teoria, si sono impegnate formalmente a rispettare. Sul tema dei profughi vi segnalo anche, e entrambi questi articoli, quello del Times of Malta e questo che vi sto per citare, in realtà li trovate sul sito, sapete, di cui io sono un po' innamorata, che è voxeurope.eu, che fa questo monitoraggio meritorio di tutta la stampa europea, ma anche anche estendendo il suo occhio, così la sua capacità di selezione anche alle vignette e soprattutto a giornali di cui è difficile per motivi di barriera linguistica accedere se appunto non ci fossero siti come questo, che ha avuto, lo dico perché chi fosse interessato può anche fare una piccola donazione, anche soltanto iscriversi alla newsletter, è un sito che è autofinanziato perché vuole restare completamente indipendente, quindi ha avuto in passato anche dei problemi perché l'Unione Europea, a fronte di chissà quanti finanziamenti a pioggia, chissà quali attività, i pochi fondi che servivano a questo sito per sopravvivere, a un certo punto li aveva tagliati. Ma detto questo, torniamo alla questione dei migranti, alla Süddeutsche Zeitung. Questo giornale tedesco ha dato conto di un fatto abbastanza inquietante, che a una risposta di un'interrogazione della deputata verde Renate Künast, il Ministero dell'Interno non ha saputo rivelare qual è l'esatto numero dei profughi alloggiati nei centri di prima accoglienza tedesca. Questo forse potrà stupire qualcuno, insomma, smettiamo di considerarci gli unici che fanno fatica a tenere monitorata la situazione, una situazione così complicata da gestire e soprattutto viste tutte le lunghe, a volte lunghissime procedure di identificazione, appunto una procedura complicata da questo, e quindi alla fine persino l'efficientissima Germania, che tra l'altro ha a disposizione strutture molto più rodate delle nostre, anche molto più finanziate per appunto l'identificazione dei profughi, soprattutto quando arrivano nei centri di prima accoglienza, ecco, anche l'efficientissima Germania, se poi interrogata puntualmente, non riesce a dire esattamente quanti ce ne sono nei suoi centri di accoglienza. Cambiamo un argomento, perché invece Le Figaro si è concentrata sulla questione del quantitative easing. Avete sentito probabilmente le dichiarazioni di Draghi settimana scorsa, Draghi o due domeniche fa, adesso non ricordo, ma forse voi lettori del Sole 24 Ore lo ricorderete, ha concesso un'intervista al Sole 24 Ore dove spiegava quali strumenti ha ancora la Banca Centrale Europea a sua disposizione per raggiungere quegli obiettivi che Draghi si è dato, in primis un certo livello di inflazione, e adesso poi si è tornato a parlare anche questa settimana di quantitative easing, cioè di questo strumento della politica monetaria. E secondo Benoît Coeur, che è membro del comitato esecutivo della BCE, appunto in un'intervista concessa alle Figaro, il dibattito resta aperto su un eventuale rafforzamento del quantitative easing. Coeur ritiene che la ripresa economica sia in corso nell'eurozona, ma lo stesso non si può dire dell'inflazione, che resta troppo bassa. Come abbiamo detto, è uno degli obiettivi di Draghi, quindi del governatore, del numero uno della BCE, alzare questa inflazione. C'è sempre su voxeurope.eu questa mappa molto interessante a proposito di indipendentismo e di pericoli che l'Unione Europea si sgretoli. C'è questa interessante mappa sulla Brexit, e anche in questo caso avete proprio all'inizio di questa settimana c'è stato l'elenco delle richieste, delle priorità del Premier Cameron, che sottoporrà all'Unione Europea le condizioni quasi che sottoporrà all'Unione Europea per evitare questo rischio di Brexit, cioè l'uscita della Great Britain dall'Unione Europea. Sappiamo, non dalla zona euro, perché la Gran Bretagna non è mai entrata nell'euro, ha conservato la sua sterlina. Allora trovate questa mappa dove si vede appunto che ci sono alcuni paesi che sono molto sensibili a questa posizione della Gran Bretagna e altri meno, e sono colorati in modo diverso, e siccome si vede per esempio che l'Irlanda è molto molto vicina alle posizioni di Cameron, ma non lontano. Lontanissima ne sono neanche la Germania, l'Austria e l'Italia, nel senso che vengono comprese queste ragioni. E sapete che, o non sapete, ma insomma lo ripetiamo qui, che questi quattro obiettivi che Cameron si è dato sono per appunto scongiurare definitivamente il pericolo di un referendum, perché poi questa Brexit avverrà solo se i cittadini britannici a un referendum la voteranno. Quindi sono la protezione del mercato unico per il Regno Unito e gli altri paesi che non usano l'euro, il rafforzamento della competitività attraverso la riduzione della burocrazia, l'esenzione per il Regno Unito dalla clausola di un'Unione Europea sempre più stretta, il rafforzamento dei parlamenti nazionali e la restrizione dell'accesso al welfare e attenzione alle esenzioni fiscali per i migranti provenienti dall'Unione Europea, i famosi, magari quelli che anni fa, anche il pericolo per esempio degli idraulici polacchi, o comunque insomma ci sono questi problemi di abbiamo la cosiddetta free circulation of people, il movimento libero delle persone all'interno dell'Unione Europea. Questo causa anche dei problemi per esempio per la questione del welfare e tante tensioni interne. Queste tensioni Cameron le vuole scongiurare, anche perché vuole essere rieletto, e quindi appunto queste quattro richieste. C'è un altro, sempre sulla questione dei migranti, un altro approfondimento su un media tedesco che è Der Spiegel, uno dei due news magazine più diffusi in Germania, l'altro è Stern. C'è anche una vignetta con Angela Merkel in veste di sollevatrice di pesi, ma anche se la stessa Angela Merkel non è proprio un fuscello, qui viene disegnata come piccola piccola all'interno di questo gigantesco, appunto, sapete, quei sollevatori di pesi che hanno i pesi regolabili ai due lati, e lei proprio non può sollevarlo un peso così. E la sintesi di quello che dice Der Spiegel è che sarà pure la donna più potente del mondo, ma la cancelliera tedesca deve affrontare un'ostilità crescente nei confronti delle sue politiche di accoglienza dei rifugiati da parte dei partner europei e in casa. E tra l'altro avrete sicuramente visto che Angela Merkel ha fatto anche un po' retromarcia sulle iniziali dichiarazioni su quanti immigrati in più fosse disposta ad accogliere la Germania. Abbiamo tempo forse ancora per un'altra segnalazione, sempre in tema di immigrazione e di spinte o di rischi di razzismo, ed è sempre da Internazionale di questa settimana un articolo del Guardian: se la Svezia si scopre razzista. Negli ultimi anni gli episodi di discriminazione nei confronti degli svedesi di origine africana sono aumentati enormemente, scrive David Crouch sul quotidiano britannico, e oggi il paese si interroga sulla sua proverbiale tolleranza. Era davvero l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi per questa settimana. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, appuntamento a sabato prossimo. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.